avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail. Come pochi istanti fa ho già dato ampio annuncio nel profilo Facebook, questa sarà realmente concretamente una trasmissione di servizio, quindi ascoltatela con attenzione. Se doveste perderne alcuni passaggi, vi consiglio di registrarla, perché sarà il passepartout indispensabile per vivere serenamente, soprattutto dopo la fantastica, fantasmagorica manifestazione. Ci sarà qualche giorno in cui tutte le donne scenderanno in piazza per rivendicare il diritto dell'autodeterminazione del loro corpo o qualcosa del genere. Per cosa protesteranno le donne illuminate italiane tra qualche giorno? Protesteranno contro una categoria sempre di donne che in realtà getta disdoro sull'intero genere femminile, e alcune donne naturalmente si prendono loro l'incarico, il mandato di difendere le altre donne da questa onta che sta attraversando, insozzando e indegnamente definendo il genere femminile. Beh, questa mattina noi siamo qui per ristabilire un diritto di esistenza anche per le mignotte. L'ho detto, è un termine molto brutto, lo so, ma se guardiamo l'aspetto etimologico in realtà non è poi così brutto. Chi è la mignotta? La mignotta è la mater ignota. Nei libri in cui venivano censiti i poveri trovatelli, figli di nessuno, in quei luoghi di pietà e di carità in cui venivano messi per essere avviati a una vita normale, quindi li facevano far preti o cose del genere più o meno, veniva scritto vicino che era figlio di M. puntato ignota. Era figlio di madre ignota, e quindi il figlio di madre ignota nella crasi è diventato mignota. Quindi non è poi una parola così brutta, non è riferibile comunque a una persona, ma è riferibile all'esito di questa persona. Quindi è la maternità ignota, ecco solo questo. Oggi naturalmente nella normale quotidiana accezione ha il senso più dispregiativo, quella è una mignotta, si dice. Nei primi tempi era riferito talmente a donne che svolgessero attività di prostituzione, poi a donne che comunque avessero una libera amministrazione della propria sessualità, tanto da seminare i figli senza padre in giro. Oggi è molto più ampio. Oggi dire a una persona se è un fio della mignotta vuol dire se è uno sveglio, se è uno intelligente, se è una persona che ha capito il senso della vita, non è un'offesa. Dice, ah, quello, ah, pensa un po', è un gran figlio di una mignotta. Fra ragazze pure ci si dice, fra signore, mi sono innamorata di uno, mi ha preso, mi ha perso, non so come fare, Dio mio, ogni volta guardo mio marito penso a quello, faccio i paragoni, Dio mio. Certo, però dice, come è proprio un figlio di una mignotta, dice, ah, mi ha portato via. Quindi in fondo non è un brutto termine, perché prendersela con le persone che danno la possibilità di richiamare a noi una così suggestiva equazione esistenziale? Beh, questa mattina di questo parleremo, ne parleremo in tutte le sue sfumature possibili, in tutte le sue possibilità. Cercheremo di usare il meno possibile questo termine, perché so che potrebbe urtare naturalmente le orecchie delicate di molte ascoltatrici che già si stanno preparando, stanno lucidando gli zatteroni resumati dagli anni 70, stanno cercando le gonne a fiorami. Ancora esiste qualche mercatino rionale che vende il paciulì, si stanno cospargendo, facendo intime detergenti con il paciulì per essere pronte a scendere in piazza e ridarci questa bellissima ventata, questa sorta di corteo storico, questa resumazione come, non so, il Calen di Maggio Assisi, i Balestri Ragubbio, le femministe che riscendono in piazza. E noi questa mattina parleremo del manuale delle giovani mignotte. L'odore intanto. Senti, snasa, no, snasa. Ti prego, occhi chiusi, occhi chiusi. Cola migliore dopo di me, naturalmente. Cosa, amore, dai. Attento, occhio Oscarino, se non fai la scorbiciata. Oh. Eccolo qua, vieni qui. Vai, apri. Ta-da! Casa! Mia! Ecco qui, apri! Ah. Gira la trottola che gira, la trottola non sente, la trottola non vede, la trottola non parla, gira... Questa è una un trattamento cinematografico di quello che oggi sembra l'assioma più frequentato del rapporto fra uomo debole, forte nella sua rappresentazione pubblica, nel suo potere d'acquisto, ma debole nella gestione dei suoi sentimenti, nella capacità di affrontare la femminilità nel suo splendore, nella sua profondità, nella sua poliedrica possibilità di espressione. E quindi Paolo Bonolis, poverino ingrifato della Santarelli, le regala una casa. E De Quo, lei è una mignotta che sfrutta un uomo ricco e potente facendosi fare dei regali. Deborah Ferretti, buongiorno. Buongiorno. Questa mattina ho la maestra di tutte le datrici strategiche, perché con Elena, con Deborah Ferretti decidemmo un anno fa, quando noi presentammo il primo suo libro, Manuale delle giovani mignotte, che avremmo preferito definire datrice strategica questa figura che è così coperta di ignominia da questo termine, che comunque sia, ha nel sentire generale femminile un'accezione negativa, perché se la donna ama dire che l'uomo che la ingrifa è un figlio di mignotta, non ama molto qualcuno dica di lei che è una mignotta. Nella maniera più assoluta. Quindi le chiamiamo datrici strategiche, sei d'accordo? D'accordo. Allora, Deborah Ferretti non paga della sua operazione di redenzione dell'umanità inconsapevole di fronte alle datrici strategiche, ha scritto un secondo libro che è il manuale, è il seguito, è MGM2, che è stato sintetizzato in una sigla, il manuale delle giovani mignotte 2, Escort sarà lei, in cui tu fai una doverosa e giustissima distinzione in una sorta di confusione lessicale che oggi è molto frequente. Qual è la differenza fra l'escort e la mignotta? La chiederemo per l'ultima volta, così poi diremo l'escort è la datrice strategica. Perfetto. La mignotta, ovviamente, datrice strategica, evoca una signora un po' discinta, con il tacco sbucciato, che va in palestra con il body in mezzo al sedere. La escort invece è una ragazza in tailleur con la camicia bianca, in borsetta ha i libri di studio e ovviamente viene da una famiglia che le ha insegnato quali sono i valori. Queste due signorine svolgono lo stesso tipo di mestiere, lo stesso tipo di attività, cioè seducono nell'accezione profonda, cioè condurre fuori. L'una lo fa come attività professionale, l'altra lo fa come attività ludica, come attività compulsiva, come desiderio di affermazione, di sopraffazione. Qual è? Perché stai guardando fuori del vetro. Ci sono vari tipi di datrici strategiche oppure escort. Ci sono le inconsapevoli, le finalizzate. Ovviamente ognuna di loro ha una metodologia e ha un fine. È vero che si seduce anche perché c'è un istinto naturale alla seduzione, ma anche la seduzione finalizzata non va colpevolizzata nella maniera più assoluta. Oggi in realtà, diciamo, le donne scendono in piazza contro le seduttrici, perché non accettano che in realtà venga in qualche maniera certificata. Io sono stato protagonista, difensore strenuo, ma ahimè, destinato al soccombere, di drive-in, perché diceva che drive-in era il principio, la scaturigine di ogni definizione negativa della donna. Le Tini Canzino, le Carmen Russo pre-silicone, tutte quelle fantastiche ragazze in realtà sarebbero state le capostipiti delle terrificanti morti che camminano, che oggi vediamo nei giornali come protagonista della nuova fase, che è l'olgettinismo, del mignottismo artificiale raccontato. Infatti queste signore che si sentono paladine della causa dell'etica e della femminilità giusta e sacrosanta e sana, dovrebbero iniziare le loro battaglie da altro che non prendersela con le datrici strategiche. Sfido chiunque di queste signore che scenderanno in piazza a rifiutare un posticino che ti offre un vitalizio e ti fa stare tanto bene al mondo. Un posticino che magari è anche preceduto da una laurea, è anche preceduto da una laurea cum laude, col massimo dei voti, da anche un master e varie specializzazioni. Quindi è inutile accusare le signorine, le datrici strategiche. Forse chi ha le datrici strategiche concede tanto, è casomai l'oggetto di questa battaglia. 800240024, voi come la pensate? È giusto parlarne? Stiamo qua allucinando da settimane, se non da mesi, un modello di femminilità che in realtà esiste, in realtà è intrisa continuamente la nostra quotidianità, tanto a pensare comunque sia uno degli aspetti della femminilità, probabilmente non quello che maggiormente porta all'edificazione, ma comunque fa parte comunque delle caratteristiche femminili, e avere un una forte e spiccata seduttività nei confronti degli uomini, così baggiani, così balordi, così stupidi, così naturalmente inclini comunque a seguire come l'ape viene attirata dalla corolla del fiore, quello che è un istinto naturale. 800240024. La gerarchia dei bisogni. Che cosa offre la seduttrice di tanto irresistibile? Prodotti di cui il gene maschile non è provvisto, ma che gli servono per stare bene al mondo. Siamo alle prese con le più elementari regole del commercio. La fornitrice immette sul mercato la merce di cui il consumatore ha bisogno. Una sessantina di anni fa, lo psicologo Abraham Maslow si prese la briga di stabilire una scala delle necessità umane. Identificò 5 livelli di bisogni, dai più elementari ai più complessi. Ci sono i bisogni fisiologici, e cioè fame, sete, sonno, sesso, di sicurezza, e cioè incolumità, salute, protezione, di appartenenza, famiglia, amicizia, amore, di stima, e cioè prestigio, rispetto, successo, e di autorealizzazione, posizione sociale, espressione individuale, creatività, senso etico. Ora, si deve notare come la donna possieda, e da sempre, le caratteristiche genetiche per soddisfare l'intera piramide. Deborah Ferretti, autrice di MGM2, il manuale del giovane mignotte, nella sua edizione che specifica e fa una giusta separazione tra il concetto di professionista e prostituta in una moderna versione e naturalmente femmina, quindi dotata di tutte le possibilità che hanno una gamma molto estesa di sedurre, che vanno appunto dal body interchiappale in palestra, dallo sguardo assassino, a semplicemente di conciarsi lievemente bene e di usare alcune piccole tecniche che rendono più facile la vita quotidianamente. Ecco, ci spieghi bene questa piramide. Esatto, al di là delle tecniche, la donna endogenicamente è predisposta per soddisfare tutti quelli che sono i bisogni essenziali, primari e secondari dell'uomo. Di questo ne sei Parliamo convinta, della sì. Fame. La donna è perfettamente in grado di cucinare. Anzi, molte donne si trincerano dietro al ti prendo per la gola. La donna sa perfettamente scegliere il migliore ristorante della città dove fare mangiare il suo compagno. Sì, infatti è una scelta difficilissima, hai ragione. E la donna invece non si pone tantissimi problemi. Fortunato che è una donna che non ti dice dove andiamo a mangiare, già sa dove. Quella è la vera seduttrice strategica, è lei che decide, pianifica, facendoti credere che sei tu che hai deciso e pianificato. No, ma non sempre è importante, l'importante è non avere il problema. Ovviamente la mentalità dell'uomo è sofisticata, non viaggiate. Viva la donna che sceglie il vino e non ti costringe a fingere qualità e perizie che tu non hai. Però anche quella remissiva forma, scegli tu per me, decidi il menù. Ma dipende, a me questo appesantisce semplicemente, preferisco fluidificare, poi andiamo avanti. Non ti piace comandare? Ma non me ne importa nulla, non voglio sono tutti tranquillo. Come te, esatto, non sono tutti come te. È una fatica, comandare è una gran fatica. Meglio avere qualcuno che dal mio punto di ti vista è naturalmente remissivo senza che tu debba esercitare il comando. Pensa che io sono femmina, quindi posso tranquillamente essere passiva e farmi sottomettere. E essere attiva e dominare a seconda dei desideri. Ma il problema del potere non me lo pongo, almeno apertamente. La donna, in secondo luogo, si occupa della salute. Un uomo, lo sappiamo, con 37,2 di febbre è agonizzante. Non è assolutamente in grado di prendersi cura di se stesso. La donna invece agisce per lui. Sì, con questo vecchio ricatto noi partoriamo. Esattamente. Voi per un mal di denti vi mettete a noi abbiamo le mestruazioni, sappiamo che cosa significa. Ma dov'è la mignotteria in questo? Questa è la banalità femminile. Non è la banalità femminile. All'incontrario, è metterti nella condizione di avere bisogno di me quando sappiamo, o almeno facciamo questa ragione, credere. Questa è ragione. Più una donna si rende indispensabile e più esercita l'adazione strategica in potenza. Ma tu sei sempre quello che va a lavorare, mi porta le cose migliori, mi fa il regalino. Poi invece sotto sotto tutta quella che è la gestione ordinaria è completamente muliebre, in mano alle donne. Sì, ma come ti spieghi, Deborah, scusami, che oggi l'adazione strategica si esprime a diversi livelli. Quella più evidente è quella naturalmente sulle pagine dei giornali, le signorine scosciate, le abbronzate, le oggettine. L'oggetto della battaglia. Ecco, ma Io onestamente posso dirlo, le vere mignotte ho conosciuto nella vita, erano signore dal polpaccio robusto, dal fianco prepotente, dal culo basso, vestite anche in maniera non eccessivamente provocante, ma stanno negli uffici, nelle redazioni dei giornali, nelle redazioni dei telegiornali, erano quelle comunque lentamente si mangiano tutto il terreno vitale intorno, ma a scapito anche delle loro colleghe, avevano i posti più privilegiati, avevano in mano il vero potere. Ed è questo infatti che sdogana il libro. Non te la devi prendere con la signorina che è visibilmente una datrice strategica, o almeno che si camuffa da datrice strategica. La vera battaglia che le donne devono combattere è contro i propri pregiudizi, quelli appunto che una che fa in questo modo sicuramente mi soffierà il marito, mi soffierà il posto, sta lavorando sotto. Sono specchietti per le allodole, sono come un richiamo per allocchi. Nel non senso sono queste che screditano la femminilità nella maniera più assoluta. Screditano la femminilità le donne che ignorano la femminilità stessa, le donne che vanno contro. Marisa Allasio, di Poveri ma belli, vestita aderente, che passa davanti ai maschietti spavanti. Oggi direbbero un culo che cammina. Al fischio si volta indignata col piglio, gli uomini pensano tutti alla stessa cosa. Le donne si mettono in vetrina, rossetti, acconciature per scoprire il collo, abiti, bustier. Perché cosa sono? Sono per essere ignorate? No, sicuramente sì, sono quelle contro cui la gente scende in piazza da qualche giorno. Ma questa è anche la signorina della redazione che si imbelletta e, come hai detto tu prima, si fa bella. Ma guarda, nelle redazioni dei giornali, devo dire, quella che più conquista l'anziano caporedattore e arriva a lambire il direttore è quella che di sotto va con i jeans, con la camicetta etnica, tiene gli occhi bassi, li alza solo al momento giusto. Un altro tipo. Cominciamo a sentire qualche ascoltatore. 800 24 00 24. Cosa fate voi per non sembrare datrici strategiche? O meglio, cosa invece voi fate, senza che nessuno se ne accorga, per la vostra personale ed utile d'azione strategica? Maria Grazia, buongiorno. Buongiorno, niente, io ho sentito l'incipit della trasmissione, mi sono un po', diciamo, sentita chiamare in causa. Scossa, esatto, nel senso che mi sembra di capire che questa scesa in piazza del 13 di febbraio venga vista come la scesa in piazza delle bruttone che vanno a protestare. Non l'ho mai detto questo, signora. Se lei ha elementi per dirlo, ci informi, ma io no, non l'ho mai nel detto. Senso che, allora, il discorso è questo: sono accadute delle cose, abbiamo avuto delle informazioni che hanno parlato di donne trattate in un certo modo. E il modo in cui hanno appena ucciso in Bangladesh una bambina di 14 anni accusata di aver avuto un adulterio con un suo parente, il capo anche villaggio. Questa è una cosa orrenda, una cosa, no, per dire che ne succedono tante nel mondo di cose. Ne accadono tante, sicuramente. Non ho visto però scendere in piazza per cose del genere mai. Comunque, Diciamo che comunque se una fetta di, cioè una parte del mondo femminile sente che è necessario ribadire che si è qualcos'altro oltre alla vulva, secondo me è una buona cosa, perché voglio dire... Ma chi è che mette in dubbio questo, scusi? No, per capire, Nel senso che è necessario dare un messaggio che non è vero, insomma, che noi siamo solo una presenza materiale, c'è qualcos'altro, insomma. Ma ognuno di noi se ne accorge quotidianamente, ci sono il tessuto sociale è pieno di donne che comunque sono indispensabili, sono dei pilastri, dei punti di riferimento. Cioè, chiaro, se io vado in edicola e compro il giornale per uomini soli, trovo soltanto donne rappresentate nel loro aspetto vulvare, come dice lei, ma è una delle tante e trascurabili realtà, non so. Questo lo sto domandando perché mi apre degli orizzonti. Io non sapevo che le donne scendessero in piazza per dire che non sono soltanto una vulva, non lo sapevo, perché ma perché lei non ha avuto la sensazione che l'informazione che abbiamo avuto ultimamente queste ragazze siano soltanto quali? Quali ragazze? Cioè, non so, una sfilza di nomi, mi viene in mente, cioè mi viene in mente anche la Minetti, secondo me, perché voglio dire anche... Scusi, lei sta parlando di persone che sono, diciamo, in qualche maniera coinvolte in un procedimento di indagine. Sì, ma è stato quello l'elemento scatenante, sì, no? Ma poi perché è un procedimento di indagine, aspetto di capire cosa verrà fuori, certo, alla fine. Certo, certo, ma voglio dire, è un fatto che si è avuto una un'informazione che parla di qualcosa che di bello pesante, insomma, non è che sia una sciocchezza quello che è accaduto, sì, le cose che abbiamo sentito. Ho capito, sì, ma ne sentono tante, dico, io leggo trasversalmente e porla, anche giornale. E porla soltanto come... Quindi voi scendete in piazza per la vicenda, diciamo... di via Olgettina, ecco, chiudiamola così. È questo il motivo per cui le donne vanno. Beh, ma insomma, c'è no, va bene, anche... ma non è che glielo nego. Sono d'accordo con lei se mi risponde che potrebbe essere un motivo. Solo per capire. Noi parliamo io parlo in generale della mignotteria come caratteristica imprescindibile comunque di una gran parte donne che si estrinseca attraverso una gamma infinita di possibilità, da essere comunque quelle che comunque usano la femminilità in un ambiente di lavoro per avere dei vantaggi, possono essere giornaliste, impiegate del catasto, assistenti sociali, infermiere, non necessariamente un essere soubrette. È una cosa che esiste, di però, cui tutti hanno sensazione, quindi di questo parliamo, ma è una però, delle tante cose. Appiattire come se tutto fosse uguale, è una cosa che non è... che non fa bene. Ma noi stiamo facendo le differenze. Nel senso che, voglio dire, una può anche decidere a 30 anni, 40 anni, non so, perché vuole fare carriera, non l'ha fatta fino a quel momento, di gestirsi in un certo modo. Ha diritto quella di farlo. Quella cosa lì è leggermente diversa. Ma ha diritto di farlo, secondo lei? Sì. Sì, sì, sì, no, io credo di sì, che ognuno ha diritto di farlo. Se ha diritto di farlo, ha diritto di farlo anche le signore che lei ha nominato, come tutte, perché vuole togliere sì. a loro il diritto. O, però, o scendere in piazza per togliere a loro il diritto di darsi in cambio di favori, di denaro, sì. di carriera e via dicendo. Se lo può fare chiunque, lo possono fare anche loro. Noi siamo arrivati comunque alla fine della prima parte, abbiamo molte telefonate e riprenderemo dopo le informazioni della borsa a parlare di questo interessante argomento. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. È stato il più grande errore della mia vita. Un fallimento. Signorina. Sai cosa faccio? No. Non torno a casa a dormire, eh? Vado in albergo, vado. Brava. E scappo con il primo venuto. Per superare Calboni, Fantozzi scese al più lussuoso albergo di Capri. Anche perché era l'unico aperto d'inverno. Scusi, hanno per caso delle singole per due? Abbiamo solo appartamenti, signore. Ma quanto costano? 60.000. Solo? Fantozzi pensò 60.000 al mese. Signore, se vuole qualcosa di meglio abbiamo l'appartamento reale, 100.000. Io lo prendo! L'ho fissato! Va bene. È mio, eh! Non lo date a nessuno, eh! 800240024, questa mattina stiamo facendo una trasmissione abbastanza perigliosa, lo vedo gli sms che arrivano, molte persone sono indignate, non diremo più quella parola che vi dà tanto fastidio, di cui comunque è infarcita la televisione quotidianamente, non c'è sceneggiato, non c'è film, probabilmente anche pubblicità, ma non la diremo più, diremo datrice strategica, perché oggi parliamo del libro di Deborah Ferretti, MGM2, Escort sarà lei, che è appunto il manuale delle giovani datrici strategiche che questa autrice ha scritto cercando di integrare quello già fatto del suo primo libro, dimostrare quanto uno degli aspetti della femminilità, che è la capacità, la volontà, la necessità di sedurre e di usare anche le armi della femminilità per mantenere comunque uno svantaggio di sproporzione di ruolo sociale, di sproporzione di vigoria e forza fisica, non so, secondo delle epoche, la donna è necessariamente costretta, ma anche piacevolmente istigata a usare queste armi. Questo esiste, è un lecito diritto alla donna di esercitarlo, quando lo esercita molte volte può creare dei disequilibri nelle organizzazioni sociali. Questo poi è un problema che si affronta in altra sede, ma il fatto che esista, il fatto che tutte le donne possano farlo, che molte donne lo fanno nascostamente, in luoghi e ambiti in cui non è poi così palese, così evidente, molte donne che non si coprono di lustrini, che non si siliconano, non si mettono il tacco 12, comunque usano profondamente, radicalmente questa loro capacità, questa loro forza, questa loro maniera di sedurre, che è la femminilità. Ne parliamo con gli ascoltatori, grazie e buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, secondo me l'uomo che deve cambiare atteggiamento nei confronti delle donne, perché l'uomo quando vede una donna che è attraente, si veste bene, lui pensa che la donna sta al gioco. È proprio l'atteggiamento dell'uomo che deve essere cambiato nei confronti della donna. Che esista un gioco è innegabile, poi la donna decide se starci o no, secondo me. Giusto, la donna decide se starci o no, però la donna, io parlo di una donna, diciamo, della mia età di 51 anni. È una ragazzina. E la ragazzina avercene. Invece oggi ha visto il gioco facile che ha. Le ragazze oggi hanno poco carattere. Beh, è sempre stato un notevole punto di svantaggio avere 50 anni rispetto a una ventenne. Questo giusto. In tutte le epoche, lo so bene, ma vale anche sì. per gli uomini, sa? Sì, però io oggi ho un carattere fermo e so valutare se mi conviene andare a letto con quell'uomo o no. Mentre le ragazze oggi che non hanno speranza nel futuro... Sono delle dilettanti nella d'azione strategica, questo lei vuol dire in sintesi? Sì. Lei sta dando delle integrazioni importanti al nostro manuale. Lei dicendo, io sono donna matura, donna fatta, perfettamente, mi corregga se dico cosa, non voglio metterle in bocca qualcosa che lei non gradisca. Lei sta dicendo, io ho 50 anni, quindi io so perfettamente che comunque ho delle frecce al mio arco che se voglio posso usare, ma se non voglio non posso usare. Esatto. O posso usare, non necessariamente il fatto che io scagli questa freccia determina la necessità che poi il mio bersaglio senta in diritto di risalire a chi aveva l'arco in mano. Quindi io amministro la mia femminilità, di cui conosco la forza, immagino. Esatto, Le ragazzine oggi si buttano. La danno a chiunque, si muovono in maniera deprezzano questa importantissima forza che è dentro se la donna. Esatto, sì. Benissimo. Deborah Ferretti, rispetto alla nostra ascoltatrice. Ti voglio dire che gli errori si fanno giustamente legati all'inesperienza in molti campi. Posso smettere di studiare sbagliando, posso decidere di cambiare città o frequentare una persona che i miei genitori che i miei genitori non gradiscono e commetto un errore. Posso anche utilizzare la mia femminilità in maniera spregiudicata sbagliando, voglio dire, fa parte dell'essere giovani. E comunque vorrei disilludere la signora e chi la pensa come lei, che attualmente a 13-14 anni le donne sono, le ragazzine sono veterane della seduzione, perché da molto presto si impara questo meccanismo. Giustamente i modelli di riferimento di cui speriamo che attendono l'età maggiore poi metterla in atto, questo io questo non lo posso assicurare. Sì. Diciamo che da esperta del settore, esperta come Emilio Salieri, sì, poi è vero, cioè, diciamo una femminilizzazione precoce rispetto, io vedo dei film degli anni 60 e 70, quando vedo le studentesse di liceo rispetto a quelle di oggi vedo dei mondi talmente diversi. Ma talmente senti diversi. Io sono cresciuta a tempo delle mele, te la ricordi la ragazzina? Sì, certo. Voglio dirti, tutto tranne una cubista di 12 anni che fino alle 4 del mattino ancheggia. Certo. Ora i tempi sono maturi perché ci siano anche delle dodicenni che stanno in Riviera a ballare e percepiscano uno stipendio per fare vedere il loro corpo e stare sul cubo. Beh, tu hai studiato studiato secondo canoni tradizionali, tu facevi un'ora di volontariato, mi dicevi, e quindi sei abituata comunque a renderti conto che c'è un mondo che necessita aiuto. Io guardo quello che c'è fuori e se c'è qualcuno o qualche settore che necessita aiuto, sicuramente sono stata formata per... Perché a Reggio Emilia facciate volontariato sì, a scuola? Sì, a scuola si faceva volontariato. Un'ora di volontariato? Sì. A settimana? Sì, andavamo al vescovado, preparavamo il pranzo per gli indigenti. Lavavate i piedi ai poveri? Fino a questo punto no, non lavavamo, però nutrivamo. Ti è servito però a mettere a punto il tuo manuale, che in fondo codifica una forma di volontariato mi su altri piani. Mi è servito nell'esistenza ad andare verso le persone che hanno bisogno, essere generosa. Sentiamo Stella. Stella, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e due. Il mio punto di vista, che volevo sentire la Deborah Ferretti, per favore, è come se avessimo un'eredità troppo stretta, nel senso che per me o eterosessuali o lesbiche, oppure eravamo prostitute. E di conseguenza adesso, anche con il nuovo linguaggio, chiamandoli in altro modo, questi corpi meravigliosi di queste ragazze che non sanno, che non sappiamo, non sanno ancora che... Non so come dire, come mettere al mondo tutto il mondo, come lei dice, corpo. Lei dice che anche oggi diamo amore. Sì. Abbiamo modelli di identità talmente stretti che o questo o quello e si infilano in un, cioè, questo senso divino e magico del nostro corpo non c'è ancora. Lei lo sa che dice una cosa molto saggia, Stella. Lei dice questa sorta di gabbie lessicali per cui una donna, bravo, che è seducente deve essere trattata, deve subito essere presa distante. Una donna intelligente deve essere intelligente, quindi guai se, se cede qualcosa. Se andiamo a danzare, facciamo danza terapia o bioenergetica in mezzo ai boschi per passare come lo streghe, balliamo in strada, cioè il nostro corpo magico, dove lo esprimiamo? A letto con il nostro uomo o a letto con la nostra compagna lesbica? O a letto con chi le pare, questo poi... Ma anche fuori dal letto, noi esprimiamo la nostra femminilità ovunque, ecco, al voi, di là della sessualità in mentre sé. Voi esprimete la vostra femminilità, devo dare velocemente la linea alle informazioni del traffico, tenetela sospesa perché ci interessa sapere qualcosa di più tra un istante. Riprendo velocemente la linea per ridarla proprio in un istante, visto che siamo arrivati alla fine del tempo a nostra disposizione. L'argomento naturalmente è fortemente stridente con quell'attualità che stanno raccontando i colleghi, ma il tema dell'autodeterminazione della femminilità, del modello unico che vedo è scritto nei messaggi che stanno arrivando, delle persone che vogliono parlare, mi sembra non è perfettamente esaurito in questa mattina, quindi lo riprenderemo, e pensavamo nel frattempo di riprenderlo proprio il giorno 13, il giorno della manifestazione delle donne. Richiamerò Deborah Ferretti con il suo libro provocatorio, ma che in sé ha un senso profondo di descrizione di un modello femminile che non è il modello unico, è una delle tante possibilità di essere donne, e con altre persone parleremo proprio di questo. Le donne vogliono raccontarsi, le donne vogliono descriversi, le donne si vedono descritte, qual è il punto di caduta rispetto alla volontà individuale di rappresentazione di se stesse e volontà pubblica e pubblica rappresentazione della femminilità? Ne parleremo il 13 febbraio. Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.